Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Non esco di casa, ah no e no, fuori c'è la crisi, c'è la crisi, e per Natale cosa mi regalerò? Buongiorno a voi da Nicoletta, torniamo ad occuparti della crisi. Ieri abbiamo dato spazio alle nostre emozioni, oggi cerchiamo di capire se e come i pensieri negativi, le preoccupazioni, lo stress, lo stato di incertezza impattano sulla nostra salute. Come vi sentite? Il vostro corpo vi manda dei segnali? Come rispondono cuore, cervello, apparato digerente? Allora visualizzatevi a figura intera e immaginate di usare una specie di scanner e ditemi dove si accende la lampadina. Vi ricordate il gioco dell'allegro chirurgo? Bene, chiamatemi e fatemi sapere e capire se e dove su di voi la crisi ha lasciato il segno. 800 24 00 24. Qui in studio con me la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, e responsabile del centro trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornata. Grazie. Dottoressa Rotavender, da anni i ricercatori misurano gli effetti dello stress sulla salute, ma quello di questi mesi è un super stress. Beh, anche perché è uno stress che proviene da tante fonti, è uno stress sulle cose abituali, quindi la nostra famiglia, i nostri affetti, è uno stress per il nostro lavoro, ma in questo momento è uno stress anche per la preoccupazione per il futuro. Intanto dobbiamo capirci sempre, anche se l'abbiamo detto tante volte, che cosa vuol dire stress. Stress è una parola che vuol dire stirare, vuol dire tirare. Lo stress può essere uno stress buono ed è quello che ci serve per alzarci dal letto la mattina, perché senza una spinta di stress non riusciremmo nemmeno, certo, ad alzarci a connettere il cervello. Lo stress fa male quando è prolungato e intenso, oppure quando è molto forte, improvviso, acuto, quindi lo stress da dolore, lo stress da spavento, ma lo stress che ci logora è proprio quello prolungato. E hanno cercato in tanti modi di misurarlo. Mi ricordo era uscito un libro tanti anni fa che permetteva di misurarlo attraverso una scala, la scala del dottor Hanson, che come al solito era l'americano che poi aveva fatto milioni di pubblicazioni, di copie di questo libro. E però era talmente semplice, metteva in ordine tutti gli elementi dello stress, e uno dei primi punti e quello che aveva un impatto più forte era proprio la instabilità nel lavoro, la instabilità nella casa, la instabilità nella carriera, il non sapere e l'inadeguatezza di ognuno al ruolo che stava ricoprendo. E poi naturalmente c'erano tutte le altre Situazioni che logorano, sì, in fila, ma le conosciamo tutti e hanno una ricaduta anche sulla nostra salute. 800 24 00 24. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi è nell'aria ogni volta che mi sento solo. So che rimarrò distratto per un po'. Ma la crisi mette in crisi la salute degli italiani? In linea con noi abbiamo il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni Italiane. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Professore, cosa sta accadendo in termini di impatto sulla salute in questi mesi di pesante difficoltà finanziaria per il nostro paese? So che le statistiche non sono ancora disponibili, ma l'Osserva Salute ci può dare un quadro generale della situazione, magari aiutandoci ad evidenziare ad esempio i cambiamenti che gli italiani hanno adottato nel loro stile di vita. Sì, noi diciamo già da un anno verifichiamo una serie di cambiamenti che riguardano per esempio l'alimentazione. Le famiglie cercano ovviamente di risparmiare anche sul cibo, magari ne comprano alcuni che sono meno salubri, per esempio risparmiano sulla palestra, sull'attività fisica, in particolar modo dei figli. Purtroppo le scuole italiane fanno poca attività fisica, molto spesso viene fatta fuori dell'orario scolastico a pagamento, e quella è un'altra spesa. Quindi si intensificano quei rischi, quei fattori di rischio che avranno sicuramente conseguenze sulla salute. Altro impatto ce l'hanno nel risparmio su alcune spese specialistiche, per esempio l'odontoiatria, i dentisti, che in Italia sono quasi tutti, diciamo, dei professionisti privati, abbiamo verificato nell'anno passato e anche in quello precedente che molti italiani rinunciano ad andare dal dentista e particolarmente poi rinunciano a terapie costose e prolungate, per esempio quelle sui bambini che hanno bisogno, diciamo, di apparecchi che sono particolarmente costosi. Tutto questo indubbiamente ha e avrà un effetto sulla loro salute. E ha delle ricadute, perché dottoressa Rottavender, tante volte abbiamo detto, a proposito di quanto ci diceva il professor Ricciardi, si risparmia perché il dentista è molto costoso, ma la salute della bocca è importantissima. Beh, non solo per il cavo orale. No, la salute della bocca è fondamentale, sono stati pubblicati numerosi lavori recentemente che hanno proprio correlato la salute della bocca e soprattutto delle gengive con la salute del cuore, perché nella bocca, che è a contatto con l'aria, ovviamente albergano dei microbi che sono quelli naturalmente presenti nell'aria. Questi microbi si installano volentieri su delle gengive che non sono sanissime, magari sono un po' malate, perché l'igiene orale è fondamentale, perché se non ci laviamo i denti 3 volte al giorno questo può provocare infiammazione. Dalla gengiva infiammata il microbo entra e va per simpatia e per similitudine, va a piazzarsi attraverso il sangue, va a finire nel cuore, perché le valvole che sono dentro il cuore hanno una struttura che somiglia molto alla mucosa che fodera all'interno della bocca, e questo permette di spiegare alcune forme di malattia delle valvole del cuore con delle conseguenze molto gravi, che sono proprio correlate a microbi che albergano nella bocca, o perché ci sono delle tonsille molto infiammate, come succede spesso nei bambini, ed è la classica carditi reumatica che è molto grave, oppure perché ci sono proprio delle gengiviti che sono fra l'altro facilmente diagnosticabili da soli, basta mettersi davanti allo specchio. Quindi un risparmio che può costarci caro. È un risparmio a lungo termine, è un risparmio che va fatto a lungo termine sulla propria salute, non risparmiando adesso. Cosa sta succedendo, professor Ricciardi, ed è successo invece negli altri paesi europei stressati dalla crisi? Ma noi abbiamo fatto una specie di task force in collaborazione con l'Osservatorio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e i dati che arrivano per esempio dalla Grecia sono veramente allarmanti. In Grecia c'è stato nell'ultimo anno un aumento del 40% dei suicidi, c'è stato un aumento del ricorso a prestazioni ospedaliere inappropriate nelle strutture pubbliche del 25%, e c'è stata invece una drammatica chiusura delle case di cura private, la gente non ha più soldi per curarsi privatamente. In Spagna invece c'è stato un enorme aumento delle depressioni, sia maggiori che minori. Noi sull'Italia stiamo cercando appunto di accumulare dati, e presumibilmente per la prossima edizione del rapporto Osserva Salute a marzo pubblicheremo i dati anche sull'Italia. Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi, buon lavoro e tanti auguri. Grazie. Altrettanto, auguri a tutti. La crisi stressa, ma non tutto lo stress, come ci ha raccontato la dottoressa Rottavender, fa male, e soprattutto ricordiamo, il nostro organismo è organizzato per affrontarlo e superarlo. Siamo vivi grazie alla capacità del nostro cervello di riconoscere l'evento stressante. Per i nostri antenati erano le bestie feroci, la fame, le ferite, per noi oggi sono il lavoro, la casa, le relazioni, il matrimonio. Gli stressor di ieri erano insomma di natura fisica, quelli di oggi tendono a essere più di natura psicologica e tendono a cronicizzarsi. Il problema è che il cervello forse non lo sa, ma soprattutto lo chiedo al professor Piero Barbanti, che è primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana, che è in linea con noi. Professore, bentornato e grazie. Buongiorno, ben trovata Nicoletta. Lo stress chi non ce l'ha ed è in costante crescita. Direi due aspetti: da un lato aumenta il carico stressante, dall'altro c'è una riduzione del sostegno ambientale, di quello che io mi ostino a chiamare l'ammortizzatore emotivo che tutti noi dovremmo avere. Molto semplicemente, il principale carico stressante per l'uomo è il lavoro, per la donna le statistiche dicono la famiglia, ma spesso la persona stressata sul lavoro non trova nella famiglia, perché la famiglia purtroppo regge meno come istituzione, come ambiente che riesce a covare i valori positivi, non trova nella famiglia il sostegno. Ed ecco quindi che una reazione vitale, perché lo stress è una reazione che aumenta le nostre velocità di pensiero, cardiovascolare, motoria, per trovare, come avrebbe loro detto negli anni 70, un equilibrio più avanzato, non ha più questa finalità, diventa cronico, senza pause, e noi incominciamo piano piano a soccombere con piccoli sintomi che a volte si configurano in vera e propria malattia. Professor Barbanti, tante volte abbiamo parlato di neurotrasmettitori, che sono questi messaggeri biochimici. Con lo stress se ne attivano uno e scendono altri, un po' come i titoli della borsa. Che cosa succede? Ah, guardi, lei mi ha levato la parola di bocca, me l'ho preparato proprio questo bel discorsino. Cioè, in realtà, cosa succede? Che incominciano a salire quei titoli estremamente volatili ad alto rischio, che sono la dopamina e la noradrenalina in particolare, cioè il brivido, l'iniziativa, l'attività psicomotoria, oltre al cortisolo, che è senza dubbio un ormone che ci mette molto pepe addosso, direi troppo. Mentre invece gli investimenti di tipo più conservativo lapidano un po'. E quali sono? Beh, la serotonina, che direi è un pochino il grande mediatore della situazione, la serotonina è il neurotrasmettitore che riequilibra i ritmi, talvolta addirittura troppo, per esempio l'equilibrio sonno-veglia, l'equilibrio alimentare. Dico troppo perché in terapie con farmaci serotoninergici alcuni equilibri che non dovrebbero esistere vengono creati. Alludo alla sfera sessuale, che si giova invece dell'impulsività e meno che dell'equilibrio. E poi l'acetilcolina, che è questo neurotrasmettitore verbalizzante, nel senso che scrive nella nostra memoria tante cose, un neurotrasmettitore che prevale in alcune fasi del nostro sonno, in particolare del sogno. E invece, ecco, un altro titolo che incomincia a mancare, che dovremmo incrementare, sono gli oppioidi. Esistono strategie per aumentarli? Esistono strategie, senza dubbio. Esistono alcune strategie per contenere, per esempio, la noradrenalina e la dopamina, sono tecniche di rilassamento, lo yoga, che è tecnica di rilassamento, non è, è senza dubbio attivo. Aumento del tono degli oppioidi può anche derivare, questa è una cosa nota ai nostri ascoltatori, da un'attività fisica non stressante. Svolgere un'attività come il camminare, il correre o comunque anche il tennis, senza dubbio pratiche sportive non straordinarie, aumenta il nostro tono di endorfine e certamente migliora e mitiga gli effetti dello stress, migliorando il nostro umore. Abbiamo in linea con noi Simonetta da Modena. Buongiorno Simonetta, benvenuta. Buongiorno. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, e Simonetta molto probabilmente ha accolto l'invito, lamentiamoci, dove si localizza, dove si fa sentire questo benedetto stress? Simonetta. Sicuramente nell'aumento, appunto, cioè concordo con tutto quello che ha detto il dottore sull'aumento della tachicardia. E l'aumento delle attività, naturalmente attività lavorative, sì, comprese appunto anche i festivi, per cui mancano proprio le giorni di riposo, naturalmente mancano proprio le vacanze, cioè a me da un anno proprio mi è cambiato completamente la vita, il mondo, per cui prima appunto avevo un'attenzione anche rivolta al discorso attività fisica, adesso proprio non è più possibile. E poi vabbè, naturalmente ci sono i figli, anche loro, certo, a loro naturalmente problemi appunto dentista, si rimanda, si allunga, cioè si spera sempre naturalmente di allungare il più possibile, proprio perché appunto questo mese non ce la faccio, rimando, però la salute ha bisogno di essere coltivata giorno per giorno. E a proposito, Simonetta dice giustamente, come molti di noi, non c'è tempo, no, di muoversi, di fare attività fisica. Volendo si trova. Andiamo a sentire la nostra scheda. Praticare attività fisica è in grado di ridurre la produzione degli ormoni dello stress, come il cortisolo, e di contrastare la naturale risposta allo stress del corpo, perché durante l'esercizio fisico il corpo produce e rilascia le endorfine che danno benessere. Il fatto di non avere mezz'ora di tempo ogni giorno per la ginnastica non significa che vi siano preclusi tutti i benefici del moto. Infatti, quando si tratta di tenere sotto controllo lo stress, ogni minuto di sport conta. Nel caso poi voleste aumentare il numero di passi quotidiani, le idee non mancano. Se aspettate l'autobus o il treno, camminate avanti e indietro. Durante le pause pubblicitarie alla TV, alzatevi e fate un giro. In ufficio, usate il bagno più lontano. Trasportate la spesa in casa facendo un tragitto per ogni sacchetto. Portate il cane a fare una passeggiata rapida. Se non avete un cane, portate a fare un giro il cane del vicino. E se neanche il vicino ha un cane, portatevi in giro il vicino. Tratto dalla sindrome da superstress di Roberta Lee. Carino, eh? Si può fare, si può fare. L'importante è avere dei vicini. Professor Barbanti, prima di salutarla, arrivano già i messaggi. Io non riesco a sopravvivere allo stress e diventa un chiodo fisso. La preoccupazione di questi momenti, mi scoppia la testa, non dormo. Insomma, il nostro cervello è veramente messo sotto assedio. Che fare? Beh, allora, cerchiamo di fare un paragone con chi sia mai andato in palestra a camminare lungo il tapirulan, cioè un'impugnatura che valuta il nostro battito cardiaco. Beh, noi quando lo facciamo e vediamo che siamo sopra il battito, rallentiamo. Sostanzialmente noi dobbiamo rallentare e ascoltarci. Questa non è banale retorica, un tot al chilo. Ascoltare, perché a un certo punto noi siamo presi da una specie di delirio per il quale noi stiamo reggendo le sorti del mondo, e questo non è mai vero. Creare una pausa, che possa essere una pausa di tipo sportivo, una pausa di tipo meditativo o una pausa in un hobby, è possibile in tutti. Mi permetto solo di dire una cosa, cerchiamo di forzare due aspetti. Se siamo stressati non possiamo permetterci molto altro. Da un lato cerchiamo di forzare il sonno, tecniche di rilassamento vanno bene, benissimo, evitare gli errori, bagno caldo, quello che si vuole. Melatonina, semmai in alcuni casi col consiglio del medico, farmaci specifici, è vitale. Secondo, punto sempre l'attenzione sugli aspetti nutrizionali, dicevamo una volta in trasmissione che il cervello fa la raccolta differenziata, sì, e cioè accumula radicali liberi. Bene, l'utilizzo sapiente, non basato sul passaparola, parlandone con il proprio medico, di sostanze, penso alla vitamina E, il selenio, lo zinco, tante sostanze e integrazioni che riescono a fare da scavenger, ci possono perlomeno dare una mano in quello che rimane però una situazione sostanzialmente che va controllata con un idoneo stile di vita. Noi non reggiamo le sorti di questo mondo, mai, in nessun caso, rendiamocene conto e a volte fermiamoci. Professor Barbanti, grazie. Arrivederci. Buona giornata e tantissimi auguri. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Dottoressa Rotavender, noi siamo abbastanza fortunati perché i consigli che vanno bene per il cervello vanno bene anche al cuore. Li abbiamo presentati in una trasmissione che abbiamo fatto di recente insieme, come una coppia sempre unita nella buona e nella cattiva sorte. Hanno dei gusti molto simili, per certo, cui prendiamo due piccioni con una fava. Non solo hanno gusti molto simili, ma sono perfuse dallo stesso sangue, che è il sangue che porta ossigeno e nutrimento a tutte le cellule, e difatti la correlazione fra il messaggio che viene recepito a livello cerebrale, quindi il messaggio che arriva al cervello, e la reazione immediata anche a livello del cuore, è una reazione che è costante, certo, è molto correlata. Ci sono dei segni tangibili che tutti noi possiamo imparare ad osservare, chissà quante volte non abbiamo notato, ma ci sono. Lo spavento provoca un aumento, un'accelerazione del cuore, qualche volta questa accelerazione non è nemmeno regolare, c'è qualche battito che salta. Lo spavento, l'emozione provocano sudorazione, per esempio. La sudorazione è una reazione delle ghiandole perché stanno ricevendo un messaggio dal cervello. L'allerta, ricordiamo quella storia carina che è stata raccontata qualche volta. L'uomo preistorico aveva davanti a una bestia feroce che lo stava per attaccare, aveva due possibilità, aveva o un atteggiamento di fuga o un atteggiamento di lotta. Nell'atteggiamento di fuga veniva portato più sangue ai muscoli lunghi, che erano quelli delle gambe e delle braccia che l'avrebbero aiutato, ma soprattutto delle gambe ad andare veloce, a scappare. Nell'atteggiamento di lotta invece il corpo si compatta, i muscoli soprattutto delle braccia pronti per la lotta si irrigidiscono e si tengono tonici per combattere, e guarda caso il sistema della coagulazione del sangue aumenta la sua capacità di coagulare perché si prepara a coagulare le ferite. E questo è biochimicamente vero. Noi sì, possiamo valutare che le persone che subiscono uno stress molto forte, se andiamo a misurare quanto coagula il loro sangue coagula di più, e questo spiega per esempio alcuni infarti che si possono verificare. Quindi, dove lo scatenante ai nostri ascoltatori possiamo dire: fuggite o restate, esatto, siete pronti a lottare. fare? Soprattutto, sono notate dei segnali nel vostro corpo? Avete notato che in quest'ultimo periodo, non so, il vostro cuore è un po' ballerino, batte improvvisamente? Ma anche un sintomo molto semplice che c'è spesso, che è quello che si chiama bruxare. Parlavamo di denti, sì, prima. Ecco, molto spesso quando si è in situazione di stress ci si accorge che la mattina ci si sveglia con tutte le impronte dei denti sulla lingua, e che se dormiamo con qualcuno il nostro compagno ci segnala che stiamo strofinando i denti durante la notte gli uni sugli altri. Anche questo è un segno di stress. Ecco, raccontateci un po' i segni dello stress. Abbiamo suggerito il vantaggio dell'attività fisica, ma ci sono anche cose meno faticose dell'attività fisica capaci di aumentare la percezione del nostro benessere. Ci sono numerose ricerche che lo dimostrano. In linea con noi abbiamo il professor Enzo Grossi, docente allo IULM per il corso Cultura e Benessere, referente scientifico della Fondazione Bracco. Professor Grossi, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Lanciamo solo una parola ai nostri ascoltatori, sì, perché riprendiamo questo discorso subito dopo i mercati e il meteo, sì, quindi in qualche modo riusciamo a spegnere il disagio che questa condizione, la crisi, provoca sul nostro organismo. In che modo, professore? Ci sono una serie di studi che sono stati svolti negli ultimi anni che dimostrano che quello che noi diciamo partecipazione culturale, termine molto vasto, è una risorsa veramente straordinaria per l'individuo che ad esempio è sottoposto a stress, perché promuove un miglioramento dello stato di salute in generale e quindi aumenta la nostra resilienza ai fenomeni stressanti, sappiamo i pericoli dello stress cronico. Certo. Ci sono molti studi che hanno anche indagato i meccanismi con cui questo si realizza, chiaro che ha a che fare con l'interferenza con circuiti neuronali e la messa in atto di meccanismi molto importanti neuroormonali che contrastano proprio quelle negative espressioni dello stress. Allora, ditemi dove avvertite, ma dove sentite male, ecco, lamentiamoci un po', a volte aiuta, serve, ma noi lo facciamo con un obiettivo ben preciso: riportare un po' in equilibrio il nostro organismo, metterlo nelle condizioni di farlo funzionare bene. Molti mi stanno scrivendo: per effetto dello stress mi sto ammalando continuamente, ho sempre l'influenza. Molti di voi mi scrivono: ho sempre dolore allo stomaco, mi brucia lo stomaco. Essere e benessere. La salute in tempo di crisi, oggi ci lamentiamo un po' perché a volte aiuta. 800 24 00 24, dove vi fa male? Ditecelo. 349 238 6666. Noi lo facciamo però con un obiettivo preciso: riportare il nostro bilancio di salute in equilibrio, perché è troppo facile dare sempre la colpa agli altri, no? A quello che sta fuori di noi. In alcuni casi la fonte del nostro malessere siamo noi, magari facciamo delle scelte sbagliate, e la cosa però ha i suoi lati positivi, perché se siamo noi la causa, una delle cause, in noi stessi possiamo trovare la soluzione. In linea con noi abbiamo il professor Grossi. Professore, le ricerche, dicevamo, hanno dimostrato che... Sì, la cultura è un grande toccasana. Quando parliamo di cultura, però, attenzione, non ci riferiamo solo a attività elevate di tipo umanistico, ma anche attività che hanno a che fare con un uso intelligente del tempo libero, cioè fare quello che ci fa piacere fare, i nostri interessi, i nostri hobby, quello che nutre il cervello e solleva il cuore, a proposito. Il cuore, esattamente. Ecco, tutto questo è una medicina, è un nutrimento fondamentale, e lo stress cronico a volte ci impedisce di averlo, e quindi dobbiamo cercare di ritagliare, parliamo sempre di tempo prezioso, in cui poter contribuire a questo stato di benessere, perché è chiaro che questo tipo di attività protegge dai rischi dello stress, ma protegge anche dalle malattie croniche. Ci sono degli studi che sono stati fatti negli Stati Uniti, in Svezia, dove hanno dimostrato che c'è una protezione dalla malattia di Alzheimer, addirittura c'è una protezione dai tumori. proprio perché si agisce sul sistema immunitario, che ricordiamo è sotto controllo anche del cervello, che viene spesso depresso quando il nostro cervello è sotto stress. Quindi prendiamoci un po' di tempo, del tempo di qualità dedicato a noi. Professor Grossi, grazie per essere stato con noi. Faremo tesoro delle sue indicazioni, anche perché spesso il tempo che dedichiamo a noi stessi ci sembra quasi di un tempo rubato, sprecato, perché siamo, no, non essere egoista. No. È giusto pensare agli altri, ma dobbiamo anche cercare di strutturarci. Abbiamo qualche telefonata dei nostri ascoltatori, da Nicola da Ischia, Giovanni da Rimini, Roberto da Prato, le mie ascoltatrici? Non abbiamo ragazze. 800 24 00 24, amiche, fate sentire la vostra voce. Nicola, buongiorno, molto lieta. Buongiorno Nicoletta, complimentissimi per la trasmissione, voglio fare gli auguri di buon Natale a te e a tutta la redazione, ti ascolto tutte le mattine. Grazie Nicola. Grazie per la compagnia. Grazie mille. Chi ti parla qui è un ipovedente. Sì. Allora ascolto tantissimo la radio, da fine 2005 ho avuto un problema gravissimo al nervo ottico, una malattia rara genetica, ma da il nervo ottico, una forma di depressione, non riuscivo ad uscire da questa depressione totale, anche se già ero abituato a fare lo sport, ecco. Grazie anche a un consiglio di un sacerdote, grazie a Gesù e tutto, diciamo, sono riuscito ad uscire da questa forma di depressione e ho cominciato di nuovo a fare lo sport, vado quasi tutti i giorni a correre, faccio 10-12 km al giorno tra passo veloce e corsa lenta, ecco, e quindi mi aiuta tantissimo a non farmi nervoso, anche perché prima io facevo il barista come lavoro. Quindi Nicola è stato sottoposto ad uno stress ed è la dimostrazione concreto che l'attività sportiva, adesso non possiamo, non voglio che passi la cosa, c'è la crisi, andate a correre e la crisi non la sentite, però aiuta, ecco, grazie Nicola, tanti auguri. È fondamentale, perché dobbiamo sempre ricordarci che lo strumento con il quale sopravviviamo è comunque il nostro corpo, lo strumento col quale possiamo essere utili agli altri è il nostro corpo, e quindi dobbiamo preoccuparci di stare bene noi, perché se non stiamo bene noi non possiamo più essere utili a nessuno. Prima di dare la parola a Giovanni, dottoressa Rottavender, noi nessuno ci insegna ad affrontare le situazioni stresse. È vero, è una riflessione che si fa, di fatto noi non impariamo da nessuno, se non origliando o per sentito dire o leggiucchiando sui giornali, non impariamo che cosa vuol dire lo stress, come fare a gestirlo, e qualche volta ci dimentichiamo di andare a cercare le cause delle cose. Un metodo abbastanza banale ma fondamentale, io penso, è di fare la lista delle cose che ci stanno dando fastidio e metterle su un foglio di carta bianca. Il fatto stesso dello scriverle, di dare una forma in termini di parole a delle situazioni psicologiche, può aiutare, e puoi stabilire la priorità. Devo fare 5-10 cose oggi, queste cose quali sono fondamentali, quali non lo sono. Questi possono sembrare dei consigli sciocchi o scontati, e invece possono essere fondamentali proprio nella riorganizzazione della mente e nel riattribuire le priorità. Nadia da Venezia ci scrive che la trasmissione è salutare, perché la mia tensione, le preoccupazioni e il malessere, Lidia cerca di condividerle incontrando e parlando e ascoltando le persone che vivono intorno a lei. Giovanni, buongiorno da Rimini. Buongiorno a tutti, grazie per avermi richiamato. Il mio problema è presto detto, a me capita nei momenti di stress di avere un prurito, un formicolio, un prurito più che altro fortissimo alle mani e ai piedi, come se 1000 aghi mi forassero. E generalmente è sempre associato a momenti piuttosto stressanti. Ma quando si dice Giovanni mi prudono le mani, ma nel vero senso delle parole, perché poi neanche grattandosele passa l'effetto. E d'altra parte io associo a due cose, un po' ho la pressione alta e da qualche tempo mi hanno diagnosticato diabete di tipo B, ho pensato potessero essere queste due cose. Posso dare un suggerimento, la reazione allo stress molto spesso sempre è determinata da un aumento della pressione, perché il sangue deve perfondere più attivamente gli organi, e la seconda cosa che può capitare è una tensione a livello della colonna cervicale, perché i muscoli del collo, soprattutto quelli del collo ma tutta la schiena, sono quelli che tengono la colonna in stato di allerta, quindi può darsi che questi formicolii che Giovanni riferisce siano proprio correlati a un irrigidimento della muscolatura del collo. D'altra parte si dice, sono stressato e viene istintivamente veramente voglia di mettere una mano sul collo, di stendere, di distendere la muscolatura. Il fatto della pressione, la pressione è un meccanismo biologico che permette di superare lo stress. L'importante è, dottoressa Rottavender, come lei mi anticipava, non imputare sempre allo stress i nostri malanni, ma di avere una lettura attenta, cioè se il sintomo persiste, esatto, consultare il medico. No, anche perché lo stress fa ammalare, cioè lo stress che si riversa sulla bocca dello stomaco, mi sento un pugno sulla bocca dello stomaco, di fatto può causare la gastrite, può causare la malattia del reflusso che tutti ormai conoscono, e questo diventa proprio una malattia vera e propria, perché ci sono dei meccanismi di funzionamento degli organi, soprattutto dell'esofago e dello stomaco, che poi si riversano non soltanto sullo stomaco stesso, che tende a essere più suscettibile all'acidità che contiene, e l'acido può anche ritornare nell'esofago, e questa è la vera malattia del reflusso, che poi va curata però, perché è una vera e propria infiammazione, certo, come una ferita. Non solo, ma lo stomaco della persona stressata può trattenere aria, quindi si rigonfia e può sollevare il nostro muscolo diaframma, che è l'altro muscolo imputato. Spesso quando siamo stressati ci dimentichiamo di respirare. Ma domani faremo una puntatona sul respiro. E dimenticandoci di respirare vuol dire che contraiamo il diaframma, che sta proprio fra i polmoni, diciamo, e lo stomaco, e questo può comportare un sollevamento del diaframma stesso, il cuore è appoggiato là sopra e può dare qualche battito irregolare. Quindi sono tutte cose molto correlate. È vero che bisogna imparare ad ascoltarsi, non bisogna nemmeno però subirlo. Certo. Quindi bisogna analizzarlo, tenerne conto e non dimenticarci che possiamo fare qualcosa per... Abbiamo in velocità, prima delle strade, Carmela Lauricella mi ha detto ok, va bene, intanto lo ringrazio in regia la parte tecnica, Roberto che ci chiama da Prato, ma già vedo che c'è una mia amica Olga, ho chiamato le mie amiche perché Roberto, grazie anche a lei di averci chiamato, mi racconti rapidamente? Allora ascolta, senti, io innanzitutto ti ringrazio per questo spazio, ho 37 anni, mi capita spesso di avere aste, stomatiti e appunto gengive sanguinanti, sicuramente fa una vita che lo stress non mi manca, certo, sono il medico, dormo poco, faccio l'autista, problemi di famiglia con i genitori, quindi sì, per me veramente non ne ho punti. Capita spesso, come si guardava prima, di fare le liste, perché duro fatica veramente a coordinare tutte le cose e a ricordarmi tutti gli impegni per me e per gli altri durante la giornata. No, lo credo. Ecco, io ho fatto ricorso al mercurio, di tutto di più, per quanto riguarda anche lo stomaco e via, per combattere queste problematiche. Ora, mi ha messo anche ulteriore dubbio questo discorso dell'infezione alle gengive correlate alle problematiche future per il cuore. Certo. Volevo sapere un qualcosa e se c'è... Roberto, lei fa l'autista, noi andiamo a sentire le strade, quindi siamo praticamente in zona, in tema, subito dopo la viabilità ci occupiamo del caso di Roberto, poi abbiamo Olga e poi abbiamo anche una lettura psicosomatica dei nostri disturbi, ma intanto io vi chiedo, nell'indagine di ieri del professor Finzi di Astra Ricerca è emerso che gli italiani iniziano nel periodo di crisi, riscoprono, ritrovano energia negli affetti, ma la sessualità è un po' in crisi, la crisi insomma mette un po' in difficoltà i rapporti con il nostro o la nostra partner, ne parliamo tra poco. Essere e benessere. Afte, che stress. Beh, le afte sono delle vere e proprie ulcere, non tutti hanno le afte, alcuni ce le hanno e quando le hanno recidivanti, quindi sì, tornano nel tempo. Non abbiamo ancora capito oggi a che cosa sono dovute, c'è stata un'ipotesi virale per lungo tempo per cui si pensa che ci sia un virus che si localizza, ma l'ipotesi più probabile è che le afte siano legate proprio a uno spasmo di una piccola arteria terminale che proprio per questione di stress si chiude, non porta più sangue a quella parte della mucosa. Le afte si formano di solito proprio nella bocca, nel punto dove la gengiva va verso la guancia, sì, quindi quello che chiamiamo il fornice. E sono dolorosissime, sono estese, qualche volta sono di più d'una contemporaneamente, sì, e ci mettono almeno 15 giorni per guarire, perché sono delle vere e proprie ulcere. Sull'afta poi si impiantano le infezioni. E di lì. Esatto, quindi non c'è molto che si possa fare, certo aiuta ma il fatto di tenere la bocca. Ma si può riascoltare la puntata di Essere Benessere dedicata a lingue dintorni. Olga, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, sento con molto piacere sempre la vostra trasmissione, poiché sono parecchio in macchina, essendo io un promotore finanziario. Di conseguenza già solamente questa professione. Ho già due argomenti di stress. Ho già un argomento di stress. Ecco, dove picchia lo stress su di lei? Dunque, a me picchia in questo particolare momento, in quanto sono reduce di un lunghissimo viaggio da un mio cliente in Toscana e un giorno mi sono fatta 1500 chilometri. Di conseguenza, indifferentemente da questo, perché fa parte della mia professione, quindi è giusto che io lo mantenga questo rispetto al cliente, però ho un bagaglio di responsabilità familiari e di conseguenza in questo momento mi tocca in un modo particolare al colon. Io suppongo, sono economia e commercio, non sono medico, di conseguenza però ho male, veramente male al colon, ma a fondo, non traverso. Di conseguenza dico, vado dal gastroenterologo e non dico nome, nel celeberrimo di Torino, e mi dice, è un amico di famiglia, mi dice, Olga, smetti, cambia la professione, cambia ecco, la però, famiglia. Ecco, però insomma, uno deve anche lavorare, Olga. Bisogna forse solo rallentare un po' il passo, cercare imporsi di rallentare il passo. Io credo che tutti sappiano che cos'è la colite e che tutti associano la colite allo stress. E questo è assolutamente vero, esiste delle forme molto importanti di malattie del colon croniche, per esempio la colite ulcerosa addirittura, oppure l'enterite di Crohn. Noi siamo abituati a considerare il nostro intestino come un tubo che collega lo stomaco con l'uscita. La verità è che quei 7 metri di intestino sono straordinariamente importanti, perché l'intestino è un organo del sistema immunitario. Tanto che dice il secondo cervello. Per esempio l'appendice, che poi si atrofizza negli anni, è come una tonsilla, quelle stesse che stanno nella gola. L'appendice è un organo immunitario, quindi per il caso di Olga io penso che quello che lei sta facendo senza saperlo è che sta somatizzando a livello del colon. Il suo colon va in spasmo, si stringe, e questo naturalmente le può provocare dolori, sintomi da irregolarità nell'evacuazione delle feci. Quindi raccontiamoci i nostri malesseri, i nostri disagi, cerchiamo di tornare in equilibrio. 800 24 00 24 e di vivere un sereno rapporto di coppia, perché anche quello produce benessere. Sto bene, ho solo avuto una giornataccia, sono stanco. Forse è colpa mia, insomma. No, dobbiamo parlarne proprio ora. Dove vai? A bere qualcosa. Adam. Senti, Annie, lascia perdere, va bene? Impotenza psicologica, di fatto è l'incapacità di raggiungere l'erezione a causa di pensieri o emozioni. Che c'è che non va? Tutto, ho ripreso a studiare, in estate si lavora di più. Quindi è stress. Stress, professor Emanuele Iannini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila. La crisi spegne il desiderio? Chi è il colpevole? Lo fa a molti, ma a seconda un po' di come si reagisce, perché certamente la crisi, se provoca quella temibile reazione che si chiama depressione, cioè se inibisce i comportamenti, i pensieri, il tono dell'umore, bene, questo a letto lo si vede bene, i danni che la depressione può provocare sono assolutamente evidenti, è proprio il desiderio che si affievolisce. Tuttavia la crisi può avere anche un aspetto, come dire, positivo dal punto di vista sessuologico, perché dall'altra parte ci sono delle coppie che ritrovano dei momenti di intimità proprio sulla base delle difficoltà della vita quotidiana. È una sorta di compensazione. Sì, ma come un ripiegamento, forse è una brutta parola che non utilizzerei in questo caso. Sì. È come un ritrovarsi, ecco, sì, più esattamente, e quindi fare un sesso molto intimo, molto, come dire, di coppia, proprio perché ciò che c'è al di fuori è in qualche maniera pericoloso, negativo, preoccupante. Quindi c'è una doppia risposta allo stress da crisi, diciamo così. Se si è depressi, a letto si va male; se invece c'è la capacità di trovare nell'altro quell'aiuto, quell'essere insieme, in qualche modo il senso stesso della coppia, al contrario, le cose possono andare addirittura meglio. Guardi, professor Iannini, ci ha dato una lettura della crisi molto intrigante. Grazie. Non tutte le crisi vengono per nuocere, non tutte le crisi nuociano alla coppia. Silvia, buongiorno da Roma. 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno, allora mi trovate in un momento di stress piano in pratica, perché sto arrivando tardi al lavoro. Sì. E infatti io quello che volevo chiedere è appunto questo. Io ho da circa un anno mi è salito tantissimo il livello di stress, tendo ad essere una persona ansiosa comunque come proprio carattere. E non, però da un anno circa io fatico tantissimo ad alzarmi la mattina, non dormo bene durante la notte, generalmente nella mia vita ho sempre dormito bene, ma sì, adesso il sonno è disturbato. Sentendo il professor Iannini mi verrebbe da dire, ha un partner con cui ha una buona complicità? No, diciamo non in questo periodo. Magari arriverà, dottoressa Rotavendere. Adesso sembra che io faccia i tarocchi. Non posso predire il futuro. Ma le auguro che arrivi e che sia buono. E che sia buono, perché anche quello aiuta, insieme all'attività fisica, insieme alla cultura, insieme allo yoga, le tecniche di rilassamento. Ma dottoressa Rotavendere, le lascio 30 secondi per un messaggio conclusivo. Io penso che anche... qualche volta è stata definita l'attività sessuale come una buona attività fisica, e su questo sono stati fatti anche degli studi. Coloro che hanno già avuto un infarto, che hanno avuto dei problemi di cuore, hanno paura di riaffrontare la coppia, l'amore sessuale, perché temono di farsi del male. La verità è che studi hanno dimostrato che questo fa bene, va fatto con calma, va fatto con molta serenità, con allegria, e quindi io direi che tutto quello che coinvolge il nostro fisico, la nostra mente, e fa bene, va ripreso e va rimesso nell'elenco. Rimesso nell'elenco. E alla nostra amica Silvia, faccia dei respiri lunghi intanto che ci segue, e vedrà che arriverà al lavoro serena. Grazie, a domani.